come fossero già oro e diamanti, come fossero già buoni contanti, come avessi già le ali, come se tu fossi libero da gesti sleali. Già oro e diamanti, già oro e diamanti, sono già oro e diamanti, oro e diamanti, sono già oro e diamanti, oro e diamanti, sono già oro e diamanti. Ascolta questa musica come fossero già oro e diamanti, ascoltala come fossero tutti distanti, ascolta questa voce come fossero cose importanti, ricami su ricami di armi e disarmi, ascoltala quando sei dentro al tunnel del problema, ascolta il tuo cuore severo e non credere alle ore sole che vorrebbero vederti in errore, ma vivi come se il tuo saluto al mondo fosse immenso, il respiro di un eroe, il respiro di un eroe. Il respiro di un eroe, ascolta il paradiso delle tue certezze, ascolta il cielo in manette, ascolta questa musica come fossero già oro e diamanti, ascolta questo flow come tu non fossi solo, ma già in tanti, rivivrai dentro a mille canzoni del mondo, ti rialzerai ogni volta che andrai a fondo e ti ripeterai come fossero già oro e diamanti. Come fossero già buoni contanti, come avessero già le ali, come se tu fossi libero dai gesti sleali. Ascolta questa musica come fossero già oro e diamanti, ascoltala come fossero tutti distanti, ascolta questa voce come fossero cose importanti, ricami su ricami di armi e disarmi, ascoltala quando sei dentro al tunnel del tuo problema, ascolta il tuo cuore severo e non credere alle sole ore che vorrebbero vederti in errore, ma vivi come se il tuo saluto al mondo fosse immenso, il respiro di un eroe, il respiro di un eroe. Ascolta il paradiso delle tue certezze, ascolta il cielo in manette, ascolta questa musica come fossero già oro e diamanti, ascolta questo flow come tu non fossi solo ma già in tanti, rivivrai dentro a mille canzoni del mondo, ti rialzerai ogni volta che andrai a fondo e ti ripeterai come fossero già oro e diamanti, come fossero già buoni contanti. Come avessi già le ali, come se tu fossi libero da gesti sleali, come fossero già oro e diamanti.